Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È stato uno dei libri più venduti durante i primi 6 mesi dell'anno. Nel mare ci sono i coccodrilli, scritto da Fabio Geda e pubblicato da Baldini Castoldi Dalai. Viene raccontata la storia vera di Enayatollah Akbari, una storia che ha commosso l'Italia. Enayatollah viveva in Afghanistan. Suo padre era stato costretto dai talebani a trasportare merci dall'Iran perché era in grado di parlare persiano. Un giorno però il camion viene assalito dai banditi, lui ucciso e il carico rubato. I talebani vogliono una ricompensa, vogliono prendere Enayatollah, che all'epoca era solo un bambino. Per nasconderlo la madre costruisce in casa una buca, come ci racconta lo stesso Enayatollah. Akbari. Sì, la mamma aveva scavato sotto per terra e quando bussavano la porta, perché queste persone, i talebani, diciamo, ci venivano a cercare, perché io mi volevano come risarcimento, me e mio fratello più piccolo. E la mamma assolutamente lottava e cercava di nascondersi come poteva lottare. Appena bussava la porta, la mamma subito ci mandava via a nasconderci e andava a aprire la porta senza chiedere chi è, chi non è, magari erano anche dei amici. Prima cosa è da nasconderci. A un certo punto tua madre decide di portarti in Pakistan. Lì che cosa succede? Lì, quando decidi di portarmi in Pakistan, magari per loro, per voi, possiamo usare un termine abbandono. Per me è un regalo che mi ha regalato 2 volte, quando mi ha fatto nascere e poi secondo dono mi ha salvato, mi ha portato in Pakistan, mi ha abbandonato e lei ha dovuto ritornare dal mio fratello più piccolo, da mia sorella. A quell'epoca io avevo circa 10 anni, perché io da noi non c'è l'anagrafe. Quindi tu non sai adesso neanche quanti anni hai precisamente? Purtroppo esattamente non lo so quanti anni ho. Però, come hanno stabilito l'Italia, legge italiana, ho 21 anni. E lì in Pakistan, da solo, a circa 10 anni, come te la sei cavata? Me la sono cavata perché ho lavorato in quell'albergo, in quel dormitorio. Siamo fermati io con la mamma per 3 giorni. E poi ho lavorato lì gratuitamente, solo per che loro mi potevano offrire un letto, il pasto. E poi dopo ho conosciuto un altro signore che mi ha offerto un lavoro, in senso che lui prendeva le merci tipo calze, merendine, accendino, questa cosa qui, il 15% più o meno prendevo io e il resto del guadagno prendeva lui. Nel libro si racconta anche tutto il viaggio che tu hai fatto attraverso l'Iran per poi arrivare in Grecia, in Italia. Ci sono delle parti dove Fabio Geda, appunto, raccontando la tua esperienza, racconta per esempio di come sei stato costretto a viaggiare con altre persone nei container, eravate tutti praticamente stretti. Come facevate? Una cosa che probabilmente noi non riusciamo neanche a immaginare. Come si fa a sopravvivere ad un viaggio in un container? Io ho attraversato Pakistan, l'Iran, Turchia, Grecia, arrivare in Italia. Ogni questo viaggio, ogni attraversamento di questo viaggio ai confini, ho rischiato la vita, tipo anche in Grecia e in Turchia. C'era un camion, un rimorchio sottofondo, sopra erano dei sassolini, sotto avevamo uno spazio di 50 centimetri, io e con tanti altri ragazzi, 70 persone, eravamo nascosti lì. 70 persone in un rimorchio, immaginiamo come pecore che stanno vicino un attaccato all'altro. Quando siamo arrivati in Turchia, dopo 3 giorni di viaggio, hanno aperto il portone da dietro il camion e noi tutti quanti eravamo bloccati, siamo diventati come delle pietre, ogni movimento creava dei dolori. Allora i turchi ci prendevano e ci buttavano come sacchi di patate. E quindi tutto questo viaggio, ogni attraversamento, l'Europa, tipo anche dalla Grecia in Italia, è stato un viaggio veramente, tu potevi rischiare la vita in modo brutto. E tanti hanno rischiato e tanti hanno perso la loro vita. Cos'è la cosa che ti ricordi di più di quei giorni, di quei tantissimi giorni di viaggio? Forse mi ricordo la prima cosa, ovviamente l'abbandono della mamma, perché per me è stato un momento indimenticabile. Dopo quello ho avuto una conoscenza con problemi del mondo. Sono stato consapevole dopo, quando ho superato questo dolore, questo abbandono, questo smettere di giocare, tutto quanto. Stare in Iran, stare come se fosse una cosa, soffrire per me è diventata una cosa patologica. Credevo una cosa ereditaria, dovrei soffrire, quindi non posso fare diversamente. Una volta che sei arrivato in Italia, che cosa è successo? Una cosa bellissima, perché non lo so se dovrei di nuovo ripetere per terza volta sono nato, perché comunque ho avuto una famiglia, che ho una mamma, una papà, un papà e due fratelli, e che con loro mi hanno influenzato. Anche prima io avevo desiderio di studiare, però con loro mi hanno aperto la mia mente in maniera grandissima. Ti hanno preso in affido? Sono in affidamento, ero in affidamento, è passato 2 anni dalla fine di affidamento, ancora sono con loro, vivo in quella famiglia, è bellissimo, mi trovo tutto bene. E della tua madre naturale hai ancora notizie? Sì, la madre naturale, diciamo, dopo 3 anni che ero in Italia, quando sono stato riconosciuto come rifugiato politico, ho tolto una parte della mia problemi della vita, così ho potuto aiutare anche la mia mamma a cercarla, perché io non sapevo ovviamente dove era. Dopo 8 anni ho scoperto, ho potuto parlare con la mamma, ho mandato un signore nel mio paese, nel mio villaggio dove abitavo io, a cercarla, ha cercato, ha trovato, ha portato in Italia, l'hanno portato in Pakistan, che adesso sono in Pakistan, li sento, mando mio fratello a scuola, li mantengo, la famiglia, siamo contenti tutti quanti. E questo era Enayatollah Akbari, protagonista di questa incredibile storia. Un viaggio, lo avete sentito, pericoloso e avventuroso dall'Afghanistan all'Italia, attraverso Iran, Turchia e Grecia. Una delle poche storie di immigrazione con un lieto fine. Una storia che lo scrittore Fabio Geda ha voluto trasformare in romanzo. Ma ecco come Geda è venuto a conoscenza della vicenda. Come sono venuto a conoscenza? Incontrando Enayatollah ad una mia presentazione 3 anni fa. Lui era stato chiamato a fare un po' da controcanto con la sua storia vera alla mia storia che io raccontavo, alla mia storia inventata, completamente inventata, che raccontavo nel primo romanzo. E cosa posso dire? Posso dire che lui ha raccontato il suo viaggio in quell'occasione in un modo così coinvolgente che, vuol dire, l'idea di provare a riraccontarlo mettendolo su pagina è venuta quasi da subito. Questo è un romanzo che quasi si scrive da solo, senza nulla togliere naturalmente alle capacità dello scrittore, perché è una storia veramente molto forte. Quanto effettivamente è entrato lo scrittore in questo romanzo? Ma guarda, è entrato in maniera trasparente. Io penso che la letteratura possa, debba anche farsi trasparente, no? Debba farsi vetro, magari un vetro antiproiettile in questo caso, per proteggere i suoi ricordi, la sua memoria. Quindi l'autorialità non è solamente nell'inventare storie, l'autorialità passa anche nella capacità di interpretare le storie dell'altro, di ascoltarle, di ricostruirle, riformarle sulla pagina. Che cosa ti ha colpito di più di questa storia? Allora, da un punto di vista strettamente umano, guarda, c'è una frase di Simone Weil, no? Lei dice spesso che l'attenzione oggi è la più grande forma di altruismo, no? Quindi dal punto di vista umano mi ha colpito il fatto che ero convinto di sapere tanto su queste vicende e invece non ne sapevo così tanto come io pensavo di saperne. E il fatto di immergermi con attenzione e quindi anche con altruismo nella sua memoria mi ha permesso di capire molto più in profondità le dinamiche che sottostanno ai grandi flussi migratori o semplicemente al viaggio di un ragazzino di 10 anni dall'Afghanistan all'Italia. Dopo aver scritto questa storia, ti capita di guardare agli stranieri in modo diverso o avevi già uno sguardo diverso? Io avevo già uno sguardo diverso per il fatto che ho lavorato come educatore per un sacco di anni, in modo particolare io ho cominciato a lavorare come educatore con i minori stranieri a San Salvario, quindi insomma, ok, abbiamo detto tutto. Detto questo, però, io penso che questa storia possa aiutare le persone, non solo questa, tutte queste storie possono aiutare le persone a vedere il mondo con occhi diversi, ma guarda, ma non solamente lo straniero, anche se stessi, perché uno guarda l'altro in modo diverso se riesce a guardare se stesso con occhi diversi. E questo era Fabio Geda, autore di Nel mare ci sono i coccodrilli di Baldini Castoldi Dalai. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, in formato MP3 o se desiderate in podcast, ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.